signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentar, ma prova a cantar con noi questa canzone. Crapapelata la fai turtei, che ne indanninghe soffra dei. Oh, soffra dei falla frittata, che ne indanninghe crapapelata. Crapapelata la fai turtei, che ne indanninghe soffra dei. I suoi freddi falla frittata, che ne indanninghe crapapelata. Crapapelata la fai turtei, che ne indanninghe soffra dei. E la canzone ti fa dimenticar, scordar ciò che ti rattrista il cuore, sospirar ti fa. Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chioma. Prova, tenta ancora. Ho provato la lazione, ti sicuro e consigliata, la chierina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata. Coraggio amico, non ti disperare. Con la bulbo capellino, con berrumo e petrolino, ho provato, ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato. Perché? Non so. Come? Chissà. Perché? Sei tu, crapapelata, crapapelata, crapa, crapa, crapa, crapa. Crapapelata la fai turtei, che ne indanninghe soffra dei.